Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di nuovo della cosiddetta guerra delle valute. Dico subito perché cosiddetta, perché c'è chi ritiene che invece sia una gran retorica attorno al movimento delle valute in questo periodo. Ma dicevo, ne parleremo anche perché c'è un vertice dei paesi dei G20 che dovrebbe discutere proprio di questo, ma è arrivata poco fa la notizia che i paesi europei nel prossimo vertice europeo probabilmente usciranno con un documento congiunto, un appello dei leader europei per evitare la guerra delle monete, e questo dopo il vertice europeo di fine mese, la prossima settimana, quello dei capi di Stato e di Governo. E anche il ministro dell'economia americano Geithner oggi è tornato sul tema, ha detto che i paesi esportatori devono riformare la politica dei cambi, in riferimento a Cina, India, ma non solo. Lo ha detto in Corea del Sud, a Gyeongju, se non pronuncio male la località, dove si è aperto ufficialmente il G20 dedicato alla finanza, con l'intervento del presidente sudcoreano Lee Myung-bak. Questo è il tema in apertura. Poi parleremo dei dati diffusi oggi da Eurostat che certificano, ahimè, non tanto un deficit italiano nel 2009 al 5,3%, questo lo sapevamo, ma che l'Italia è il paese col più alto debito pubblico d'Europa in proporzione al PIL, più della Grecia nel 2009, al 116%. E faremo un parallelo, visto che molte richieste arrivano al governo in questo periodo di avere politiche sui conti pubblici. È arrivato l'appello ieri dal congresso annuale dei commercialisti, il patto degli onesti, bisogna ridurre il debito per fare poi politiche proattive per la crescita. Faremo, dicevo, il parallelo con quanto è stato stabilito proprio in questa settimana in Gran Bretagna, forse riusciamo a farla oggi questo approfondimento. È un piano pesantissimo da parte del neo primo ministro Cameron, di tagli soprattutto. Ancora, per quello che riguarda invece i temi di casa nostra, i dubbi libici nella partecipazione in Unicredit, li affronteremo dopo i mercati finanziari. Sembra che appunto a livello libico vi sia più di un dubbio e incertezza dopo tutto quello che ha scatenato l'ingresso e la quota libica in Unicredit. Dicevo che lo faremo dopo i mercati finanziari, mercati che vanno a chiudere la settimana leggermente in calo: meno 0,3% Milano, meno 0,1% Parigi, invariata Francoforte, meno 0,1% Londra, l'America meno 0,1%, ma è stata una settimana tutto sommato buona per i mercati questa. Complessivamente chi guadagna: più 2% Campari, miglior titolo Finmeccanica pure più 2%, ST Microelectronics più 1,90% come Mediaset, l'1% lo guadagna Autogrill, lo 0,80% sia Atlantia che Geox che Azimut. Chi perde di più invece: la Popolare di Milano l'1,3%, Unicredito più 1,3% anch'esso, Telecom meno 1 come CIR e il Banco Popolare, ma anche Luxottica perde l'1%. Visto che accennavo alla guerra valutaria, l'euro è stabilmente a quota 1,391 nei confronti del dollaro. Il numero per i vostri SMS è sempre il solito: 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, per quello che riguarda i messaggi, vedo che già siamo in vena polemica, va bene, andiamo avanti. Il petrolio $81,6 a New York, sotto gli $82 al barile. L'oro in calo, si fa per dire, a $1,326 l'oncia. Notizia interessante arriva dalla Cina invece, perché i salari stanno, io aggiungo per fortuna, aumentando anche in Cina. Non c'è stata non c'è stato solo il caso della enorme fabbrica della Foxconn, producono praticamente quasi tutti i computer del mondo, sono 300.000 operai in cui, dopo un insieme di suicidi, una serie di suicidi, il governo cinese per risolvere il problema aveva trattato un aumento importantissimo in busta paga. Oggi emerge da una ricerca del quotidiano cinese Shanghai Daily che complessivamente tutte le società cinesi che hanno poi sede a Shanghai spendono molto di più che nel passato per i loro impiegati. Appunto, Shanghai guida la lista. Praticamente ormai il costo medio per ogni lavoratore tocca i 10.000 euro rispetto ai 9.600 euro dell'anno scorso. È ancora poco, perché 10.000 euro è il calcolo complessivo, lordo, molto meno rispetto all'Italia, ma attenzione, non sono più, diciamo, salari cinesi come li immaginavamo noi. Mediamente gli stipendi sono aumentati quest'anno tra l'8 e il 9%, in alcuni casi anche al 17%, e molte aziende sull'onda dell'espansione economica hanno anche aumentato i propri dipendenti, ma insomma magari anche in Cina si svilupperà un po' di spinta sui salari e quindi anche consumi interni, oltre che prodotti, diciamo, tra virgolette meno competitivi sul prezzo. Conti pubblici, dicevamo, Eurostat il deficit nel 2009 al 5,3%, il debito al 116%, entrate sostanzialmente stabili, spesa pubblica in aumento nel 2009 al 52% del PIL contro il 48,8% del 2008. Poi ci sono dei dati Istat che io non so se abbia senso leggere, io non so se l'Istat per motivi suoi debba sempre uscire così in ritardo con i dati, forse magari ne parleremo col presidente un giorno, ci sono dei problemi statistici, ma insomma che senso ha sapere oggi che ad agosto le vendite al dettaglio erano ferme mese su mese e più 0,3% sull'anno, ormai agosto è un ricordo. Previsioni non belle invece arrivano sul mercato dell'auto, queste sì che sono previsioni. Dovrebbe fare un altro meno 25% ad ottobre, un calo due cifre per un totale di 140-145.000 nuove immatricolazioni. La stima è del direttore generale dell'UNRAE, che è l'associazione che raduna le case estere che operano in Italia, e mi riferisco a Gianni Filipponi. Temi di casa nostra. Il governo prorogherà la cassa integrazione in deroga e gli altri strumenti che vanno sotto il nome di ammortizzatori sociali per tutto il 2011, lo ha annunciato il ministro del lavoro Sacconi, e poi il ministro ha anche inaugurato oggi un servizio sperimentale per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro via web. Il portale si chiamerà Click Lavoro, tutta una parola, www.clicklavoro.gov.it, ed è operativo dalle 13 di oggi. Sentiamo su questo, anche su questo, il ministro Sacconi. Le aspettative sono quelle di poter concorrere, Stato e Regioni insieme, a rendere più trasparente la possibilità di incontro tra lavoratori e datori di lavoro e a dotare di maggiori informazioni, di maggiori servizi, tutti gli operatori pubblici e privati che si adoperano per questo incontro fra domanda e offerta di lavoro. Ma la sperimentazione è relativa ai modi con i quali questo portale è organizzato, perché solo utilizzandolo sulla rete possiamo verificare pregi e difetti dello strumento. È frutto di una leale collaborazione con le regioni, perché le regioni hanno competenza primaria in materia di mercato del lavoro, è frutto di collaborazione peraltro anche con gli operatori privati, consente di accedere alle informazioni che hanno sia i soggetti pubblici come i centri per l'impiego che i soggetti privati, ed è un portale per accedere a molte delle informazioni che il pubblico può dare, a partire dai lavoratori che, in quanto percettori di sostegno al reddito, sono anche titolari di una dote per colui che li assume. E in tema di lavoro, scade oggi il termine per la presentazione delle offerte di acquisto degli stabilimenti che erano dell'ENI, ex ENI, di Porto Torres, Sassari, Ravenna e Porto Marghera. Venezia, quindi, e ci riferiamo alla Vinils, i cassi integrati della Vinils, quelli che sono, diciamo, all'Asinare, fanno l'isola del cassa integrato, ormai da 240 giorni. La salvezza potrebbe arrivare dalla Croazia, perché la Diochi, è una società che ha sede a Zagabria, avrebbe manifestato apertamente l'interesse a investire nel settore chimico in Sardegna. Loro sono lì da 240 giorni, invece c'è un posto vacante, un posto di lavoro vacante da 113 giorni, è quello del presidente della Consob. Oggi sollecitato dopo il Consiglio dei Ministri, il ministro della Difesa della Russia ha detto: le nomine Consob non erano all'ordine del giorno, purtroppo, dico io. Qualche ministro ha sollecitato il tema, dopo il Consiglio dei Ministri se ne parlerà. Niente fretta, mi raccomando. Le quote latte, ne parliamo dopo delle quote latte, perché oggi il ministro Galan è tornato a dire i 563 irriducibili devono pagare le multe. Ci sono 39.500 produttori che sono in regola, tranne questi 560. Ne parleremo nella seconda ora, quando anche avremo come ospite quello che ci hanno segnalato molti ascoltatori. Viene considerato il Beppe Grillo della finanza, Eugenio Benettazzo. Chi lo conosce già, mandi pure un sms. Vorremmo capire perché di questo successo incredibile che hanno i suoi libri verso i risparmiatori, verso la gente comune. Partiamo con il primo tema invece, e mi riferisco alla cosiddetta guerra valutaria. 349-238-6666 per i vostri sms. Eh sì, perché questo è il tema del vertice dei G20 della finanza che si è aperto appunto in Sud Corea. Oggi però ci ha incuriosito, al di là delle notizie di cronaca, un articolo apparso su Sole 24 Ore. Perché se la Cina anche oggi ha confermato che il livello dei tassi di interesse cinesi sarà regolato gradualmente dai mercati, e il presidente del Consiglio Berlusconi ha detto non vedo rischi di guerra valutaria, ma mi auguro una sensibilità della Cina, c'è chi invece questi rischi continua a vederli. Allora, molti ci hanno chiesto in questi giorni: ma come fa la Cina a tenere bassa la sua valuta? Lo fa in una maniera molto semplice: utilizza parte del suo enorme surplus commerciale, cioè la differenza tra quanto esporta e quanto importa. La Cina è un attivo fantasmagorico, beh, usa questi soldi per acquistare valute e quindi le tiene alte, perché se tu acquisti una valuta, rigore di logica, la valuta cresce come valore. Vende yuan e acquista valute. Il 19 ottobre ha sia alzato i tassi di un punto, portando il costo del denaro al 2,5%, ma comunque il dollaro resta molto debole. Dicevo che ci ha incuriosito però un articolo oggi del Sole 24 Ore di Walter Riolfi, che è nostro ospite. Walter, buonasera. Buonasera. La retorica sui cambi aiuta la speculazione. Facci capire, non è vero che c'è una guerra, c'è molta retorica, è una guerra che inventano i giornali o i politici per distrarre l'opinione pubblica? Prima domanda. E seconda domanda, perché aiuta la speculazione? Prego. La guerra sui cambi c'è, che ne dicono le autorità Draghi o Berlusconi, le quali non possono esporsi e dichiarare ufficialmente c'è una guerra, ma di fatto la guerra c'è, se si vuole, nemmeno allo stato latente, insomma. E la guerra è stata innescata soprattutto dagli Stati Uniti, quando hanno lanciato la proposta di un nuovo quantitative easing, cioè acquistare miliardi, centinaia di miliardi di titoli di Stato e forse anche cartolarizzazioni sui mutui casa sul mercato, e quindi inondando il mercato di nuova liquidità. Più liquidità si fa, più la valuta si svaluta, perché si inflaziona. No? Ecco, e non si sa bene se questo quantitative easing servirà all'economia americana, certo, visto che le banche americane siedono su 1.500 miliardi di dollari, cito a memoria, dovrebbe essere corretto, di liquidità. È un record, eppure non prestano un centesimo. Non investono, in più, non prestano. Non prestano in più, anche perché se non ci sono le condizioni probabilmente per prestare denaro alle imprese alle attività produttive, anche se tu aumenti la base di liquidità delle banche, non ottieni assolutamente certo. nulla, però un effetto lo tieni, svaluti il dollaro. E non solo, stai rivalutando artificialmente altre attività finanziarie, che sono le obbligazioni, in primo luogo mm-hmm. i titoli di Stato, ma anche i bond societari, e la borsa, perché tutta questa nuova liquidità, visto che non finisce o non finirà nelle attività produttive, in parte, da qualche parte deve finire. Nell'oro. E finisce per esempio sui mercati, oppure mm-hmm. sui mercati delle commodity, oro e, mm-hmm. e anche le altre. Mm-hmm. Perché però c'è una retorica sui cambi, Walter? E tu dici, insomma, aiuta palesemente la speculazione. Dov'è la retorica? La retorica, per esempio, era ieri le dichiarazioni del ministro del Tesoro americano Geithner, il quale propone una cosa che in teoria avrebbe anche senso, cioè aggiustiamo i cambi in base al surplus delle partite correnti dei vari partner commerciali, cioè chi ha un surplus dovrà rivalutare la propria moneta. Mm-hmm. Al contrario, chi ha un deficit, come gli Stati Uniti, che è un deficit superiore al 3%, dovrà invece svalutare o vedrà svalutata la propria, mm-hmm. la propria moneta. Detto così sembra una cosa semplice, metterlo in pratica è una cosa estremamente complessa, no? Cioè, vorrei ricordare Ho ben capito, tu stai dicendo che cioè, da un lato che c'è retorica e forse anche un po' di ipocrisia, aggiungo io, in un'America che di fatto è lei che indebolisce il suo dollaro con il meccanismo l'ha che fatto in maniera unilaterale, no? Sì, tecnicamente è difficile da spiegare il quantitative easing, appunto, ma è quello stampi moneta e te compri il tuo debito, insomma, e generi una massa enorme di liquidità, però rendi a questo punto il denaro molto più, dovresti rendere il denaro molto più più circolante. Vediamo che poi non è necessariamente così, però tu dici l'America è la prima ad avere abbassato nei confronti dell'euro, dello yen per esempio, il valore del dollaro con questo meccanismo, e poi però nelle dichiarazioni ufficiali chiede alla Cina di rivalutare lo yuan. Cioè, c'è quasi più incoerenza che retorica, o no? È una schermaglia a questo punto. Bisogna convincere la Cina a rivalutare lo yuan. Secondo il Fondo Monetario, lo yuan potrebbe essere sottovalutato di un 25%, poi dipende da come si fanno i calcoli, secondo i cinesi lo sarebbe molto meno, e comunque qualche apprezzamento si è visto negli ultimi due mesi, ancora cose marginali, però c'è. Però se si innesca questa guerra valutaria, non so come il Giappone può vedere un rapporto yen dollaro sotto 80-81 come adesso, magari a 70 ancora, quindi un 10-15% in meno. L'Europa può sopportare un dollaro, ora siamo a 1,40, 1,39, 1,40, può sopportarlo a 1,75? Il Brasile, anche il Brasile ha qualcosa da dire, no? Il Brasile è l'unico paese che ha rivalutato il reale, adesso però si sta lamentando perché siamo stati solo noi a rivalutare il reale per fare un piacere ad americani ed europei, ma non ci stiamo più. Mi sembra che ci sia molta politica e poca economia dietro tutte queste dichiarazioni. C'è sicuramente politica. L'America in una situazione di un'economia che langue, che cresce a ritmi del al massimo crescerà tra l'1,5 e il 2%, è insufficiente per assorbire anche l'aumento demografico che c'è negli Stati Uniti, e quindi per assorbire tutta la disoccupazione. È chiaro che l'amministrazione americana, tanto più adesso nell'imminenza delle elezioni di inizio novembre, deve trovare altre soluzioni. Certo. Per il midterm pesa su queste dichiarazioni così roboanti, ma poi che insomma sono a mio avviso anche molto incoerenti, perché tu non puoi chiedere alla Cina di non fare, tu America, quello che tu stai facendo con l'euro e lo yen, di fatto utilizzando la leva del cambio come leva. Anche il surplus, a ricordare che nei decenni passati, quando l'Italia aveva un discreto surplus certo. dell'attività esportavamo più di quanto attività commerciale, no? E l'Italia continuava a svalutare la lira ugualmente, non rivalutarla semmai, no? Quindi in teoria il discorso di Geithner è difficilmente conciliabile con le esigenze dei vari certo. partner commerciali degli Stati Uniti. Allora, intanto vedo che molti sono i fans di Eugenio Benettazzo. Lo avremo nella seconda ora, vedremo di capire qual è il segreto del suo successo presso i risparmiatori. Io intanto ringrazio Walter Ioffi, però noi restiamo sul tema, perché mentre l'America non ci sta proprio pensando a ridurre deficit e debito, possiamo dirlo tranquillamente, per ora no. È l'ultimo dopo dei problemi, le elezioni si dopo vedrà. Le elezioni vediamo, è l'ultimo dei problemi americani. Questo poi comporta lo squilibrio, lo dico anche per far capire chi scrive, valutario a cui stiamo assistendo, cioè l'America in questo momento va a abbassare il dollaro e fare le operazioni di liquidità che prima ricordavamo. C'è un paese europeo, anche se bisogna ricordarglielo ogni tanto, che si chiama Gran Bretagna, che di ridurre il deficit e sulla riduzione del deficit ha posto un obiettivo imponente. Oggi è il giorno in cui la Gran Bretagna fa un passo indietro dall'abisso. Quando affrontiamo il conto di un decennio di debito, questo è il giorno della ricostruzione in cui definiamo il piano quadriennale per rimettere in carreggiata il sistema sociale in modo che sia sostenibile nel lungo termine. In questo modo riusciremo a proteggere i più vulnerabili, a sostenere le famiglie e a far sì che l'economia sia competitiva. È una strada difficile, ma ci porterà a un futuro migliore. Stiamo mettendo fine all'epoca dell'aumento infinito del debito. Dobbiamo assicurare che non faremo pagare ai nostri figli gli interessi sugli interessi sugli interessi sui debiti che noi non siamo preparati a pagare. Abbiamo il deficit di bilancio più elevato d'Europa. Affrontarlo era una scelta inevitabile e oggi la stiamo facendo. Investire sul futuro, ecco la nostra scelta. Abbiamo scelto di spendere puntando sulle più importanti priorità del Paese, ossia il sistema sanitario, il sistema scolastico per i giovani, la sicurezza del paese e sulle infrastrutture che sosterranno la crescita economica. Abbiamo scelto di tagliare gli sprechi e di riformare il sistema di welfare che non è più sostenibile. Con 109 miliardi di sterline, il nostro è il più alto deficit di bilancio in Europa. Questo in un momento in cui tutto il mondo è preoccupato dai deficit elevati. Ogni giorno paghiamo 120 milioni di sterline, ossia 43 miliardi di sterline all'anno in interessi sul debito pubblico. E sappiamo bene che questo denaro sarebbe meglio speso per le necessità dei nostri connazionali. This at a time when we all know that the money would far better serve the needs of our own citizens. George Osborne, il cancelliere, lo scacchiere, quello che avete appena sentito, ricordava come la Gran Bretagna abbia il poco invidiabile primato di un deficit che viaggia praticamente all'11% del PIL. Pensate che il nostro è al 5%, già siamo preoccupati. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore della Gran Bretagna, buonasera. Buonasera a voi. Ti chiedo 2 minuti di pazienza per immettere la pubblicità. Vorrei capire, insomma, come è stato possibile far passare un piano che fa spavento a leggerlo, cioè 92 miliardi di euro di tagli nei prossimi 4 anni, 490 mila dipendenti della pubblica amministrazione che usciranno, quasi il 10% del totale, e poi dei tagli ai ministeri che, a cui confronto Tremonti sembra un keynesiano, no? Meno 33% il tesoro, meno 24% gli esteri, meno 24% la cultura. Risposta dopo il meteo 349-238-6666 per i vostri sms. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Fra poco commentiamo la borsa, chiusura in calo, ma poca roba, meno 0,3%. Vedo anche molti promotori finanziari che invece ce l'hanno con Eugenio Benettazzo, sarà il nostro ospite. Noi siamo solo curiosi. Uno scrive: se invitate Benettazzo dovreste invitare anche il mago Don Nascimento. Vabbè, l'astrologa l'abbiamo già avuta. Detto questo, Leonardo Maisano, come fa Osborne e soprattutto Cameron, come fanno a far passare un piano del genere senza le rivolte sociali? Ci interessa perché in Francia Sarkozy, come ha annunciato 2 anni in più di pensione, si è bloccato il paese. Qui da noi non si riesce a tagliare la spesa corrente, anzi continua a aumentare, che se ne dica, ma insomma la spesa per la pubblica amministrazione continua a crescere. Lì un po' di brusio, ma tutti zitti? Per il momento sì, però non è detto che vada avanti necessariamente così. Per il momento poi tutti zitti fino a un certo punto, nel senso che i sindacati hanno ovviamente contestato le misure con i toni più accesi possibili, l'opposizione anche. L'organismo che riunisce le maggiori sigle delle union si riunirà tra due settimane per decidere il da farsi. Alcuni hanno già chiesto scioperi alla francese, che sono però improbabili, perché poi qui c'è un sistema di leggi introdotte dalla Thatcher che rende molto più complesso lo sciopero organizzato come avviene nell'Europa continentale. Questo però non impedirebbe manifestazioni di protesta diffuse. Bisogna vedere, anche perché sono misure che entreranno progressivamente, cioè non c'è un impatto, cioè non è cominciano dall'oggi al domani, è un progressivo effetto, per cui finché la gente non avvertirà, come dire, il morso di queste misure, probabilmente non ci saranno reazioni più evidenti. Sì, poi ha fatto notizie sui giornali una cosa a mio avviso molto marginale, come il fatto che anche la regina si sia tagliata le spese del 14%, sì. Sopravvive secondo me, ma invece l'età pensionabile in Gran Bretagna, visto che citavamo il caso francese, insomma la vogliono portare a 66 anni, sì. Nessuno ha avuto niente da ridire. Innalzano di un anno, era già previsto, però era previsto dal 2025, questo invece inizierà a scattare nel 2018 per entrare nel regime nel 2020, e riguarderà uomini e donne. Ecco, la cosa più interessante, Leonardo, di questo piano di austerità, che appunto vede ridursi di quasi mezzo milione di dipendenti della pubblica amministrazione, i tagli ai ministeri sono pesantissimi, è però che, cosa che non ha fatto la Francia, non ha fatto nemmeno l'Italia, devo dire, però la Gran Bretagna veniva da un grosso salvataggio alle banche, Royal Bank of Scotland di fatto nazionalizzata e via così, c'è una tassa per le banche perché devono pagare anche loro per il danno che hanno creato, ho capito bene? Sì, è stata resa permanente, l'anno scorso avevano messo un una tantum sui bonus, quest'anno non hanno rinnovato quella tassa, ma hanno messo un'imposta sul bilancio delle banche da definire, che comunque è stata concordata con le banche, nonostante le banche si siano lamentate, in realtà è una cosa che prevedevano, che andava, non dico bene, ma comunque che consideravano accettabile. Garantirà un gettito di 2 miliardi e mezzo circa di sterline all'anno. Beh, non è poca roba, sono 3 miliardi e passa di euro. In questa fase, perché è in corso una review generale del ruolo, delle funzioni delle banche, con l'ipotesi anche di arrivare a una spaccatura tra investment banking e retail, cosa che sarebbe unica al mondo, però una commissione governativa sta studiando quello, cioè sta cercando di capire se sia fattibile e se sia conveniente uno scenario. Beh, diciamo che molti osservatori ritengono che il dramma, o meglio le origini della crisi che poi è esplosa 2 anni fa, siano da rinvenirsi nella legge americana che aveva di fatto levato le barriere tra la banca di investimenti, quella che fa speculazioni, investimenti, usa la leva finanziaria, derivati, quant'altro, e la banca classica, quella che invece raccoglie i soldi, li presta e li reinveste. Ecco, la commistione tra le due ha creato il disastro, secondo molti osservatori a cui abbiamo assistito. Quindi non ci troverai niente di male nel separare l'investment banking dalla banca retail classica. È un'ipotesi. Lo so, perché ero paura. Poi anche le banche sono fare lobby, insomma. Un paese, bisogna essere obiettivi, che affronta ancora questo tema come una ipotesi di lavoro. Grazie Leonardo Maisano, il corrispondente del Sole 24 Ore dalla Gran Bretagna. Adesso la borsa e poi parliamo anche di banche, ossia di Unicredito. Però prima la borsa. Allora, meno 0,3% Milano, meno 0,2% Parigi, invariata Francoforte, meno 0,3% Londra, l'America meno 0,1%. Poca roba oggi, euro quota 1,3120, il titolo migliore è Campari, si avvicina allo Spritz Time, e più 2, ST Microelectronics più 1,90%, Mediaset più 1,6%, Finmeccanica più 1,5%, Autogrill più 1%, Buzzi Unicem più 0,90%, fronte opposto, Unicredito meno 1,5%, ma ne parliamo fra un attimo, come la Popolare di Milano, CIR meno 1%, Fondiaria meno 0,90%, come Banco Popolare meno 0,80 lo perde Fiat e Telecom Italia. Lo 0,7 invece è il calo di Eni, Luxottica, Exor e Impregilo. Come sempre, l'agenzia di stampa Radio Corriere delle 24 ore fa il collegamento con noi nella persona oggi di Guido Maurino. Buonasera Guido. Buonasera. Dunque, borse europee fiacchine, nessun dato oggi, devo dire che la giornata è abbastanza fiacca in sé, ma ci può stare. Allora, Campari, lascia stare la mia battuta orrenda, il motivo per cui sale così tanto? Diciamo che Campari prosegue perché già ieri aveva guadagnato bene, oggi guadagna un altro 2,02%, c'è una ritrovata attenzione un po' in tutta Europa sul settore alimentare dopo alcune buone trimestrali arrivate negli ultimi giorni, in particolare Pernod Ricard e Danone a Parigi. Infatti vediamo appunto Campari guadagnato il 2,02%, ma anche Autogrill, che in qualche modo è sempre legata ai consumi alimentari, ha guadagnato un altro 1,02%, anche Parmalat più 0,41%, è stato comunque fra i titoli positivi. Ancora per quello che riguarda i migliori e peggiori, visto che ce lo chiedete, Vita, società editoriale che è oggi sta quotata, debuttava oggi, ha fatto più 22, complimenti. Sì, che oggi... questo non è tua, dico, ma che fa Vita? Società editoriale. È una società editoriale attiva soprattutto nell'ambito del no profit, fa anche consulenze sempre in questo settore. Diciamo che può essere divertente andare a vedere un po' i soci che sono emersi oggi in sede di quotazione e vediamo che nonostante sia una società relativamente abbastanza piccola, fra i suoi soci ci sono i Crea Holding, che è la holding delle banche di credito, sì, cooperativo col 10%, c'è l'Istituto Atesino di Sviluppo, che è socio storico di Mittel, di Giovanni Bazzoli, la stessa Mittel, gli eredi Carlo Caracciolo, l'imprenditore Francesco Merloni che è già in RCS, sì, molte banche popolari, alcune SGR, insomma un parterre nutrito e di spessore per questa matricola. Traffico, poi gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, un po' di pazienza, adesso arriverà anche Benettazzo, ci sono tutti i suoi fan in ascolto. E invece ci chiedete quanto è la differenza tra i costi del Quirinale e della corona britannica, visto che parlavamo dei tagli al budget della finanziaria britannica. C'è qualcuno che vuole rovinarsi il venerdì, fine settimana. Vabbè, ve li dico. Il Quirinale costa 241 milioni l'anno e costa 4 volte Buckingham Palace. Fine. Quindi, e adesso vi siete rovinati il weekend. Invece noi torniamo a parlare di borsa. Guido Marino, per quello che riguarda gli altri titoli, bene la Lazio più 15%, Dada più 10%, Olidata più 9,90%, Risanamento più 5,6%, Fintel più 4,80%, Male, Vivendi meno 6,70%, BS meno 5,40%, Biancamano meno 3,31%, Telecom Italia, perché c'è qualche notizia invece lì. Sì, Telecom Italia, c'è questa richiesta dell'Unione Europea sostanzialmente di abbassare le tariffe che Telecom Italia fa pagare agli altri operatori per utilizzare la sua rete. Per cui, insomma, su questa notizia oggi il titolo un po' ha ceduto, ha ceduto lo 0,82%, si fanno anche, diciamo, già i primi calcoli su quello che potrebbe andare a impattare per Telecom Italia. Si dice che una revisione del 3% della tariffa, almeno secondo quanto riferivano oggi degli analisti, implicherebbe un minor beneficio per Telecom Italia di circa 20 milioni di euro al 2012. Per cui su questa notizia un pochettino il titolo oggi è sceso. E poi il peggior titolo è Unicredit, meno 1,5% a 1,90€, e questo è il prossimo tema di Focus Economia. Io ringrazio e auguro un buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore. Allora parliamo di Unicredit, ma di nuovo il tema, il soggetto sono i libici, o meglio la quota libica in Unicredit. È un po' scherziamo, Tripoli, bel suol d'amore, 1911, era la canzone, insomma, che di propaganda per la conquista della Libia, se ci sente Gheddafi. Qua però è l'opposto, è Roma, bel suol d'amore, o meglio Milano, Piazza Cordusio, bel suol d'amore, perché come ricorderete, anche perché questa è stata l'origine poi dello scontro che ha portato alle dimissioni, o meno, perlomeno formalmente, di Alessandro Profumo, dicevo, i libici ormai hanno il 7,5% di Unicredit, hanno fatto arrabbiare molto i governatori e i sindaci leghisti del Veneto. Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, buonasera. Carlo Maroni, scusatemi, ho sbagliato. Carlo Maroni del Sole 24 Ore, buonasera Carlo. Buonasera a voi. Ero distratto da Tripoli, bel suol d'amore, ti è piaciuta? Sì, peraltro va ricordato una cosa interessante, che nel 1911 la campagna di Libia fu finanziata dal Banco di Roma. È vero, che, è vero. Che oggi è Unicredit. Bravo, bravo. Banco di Roma, quello che qualche altro problema lo creò a suo tempo, non voglio fare riferimenti, sennò poi ci infiliamo in un cul-de-sac. Ma insomma, il grande scandalo, il primo scandalo finanziario dell'Italia fu, se non ricordo, quello che vide coinvolto anche il Banco di Roma. Comunque, che è successo? Tu oggi hai scoperto una cosa che scrivi su Sole 24 Ore. Insomma, i libici ci sono rimasti male e stanno ripensando a che cosa? Allora, innanzitutto non i libici tutti, ma solamente la una Libia, parte, cioè vero. Il fondo sovrano che è il 259, che ha una gestione, dicono i libici, totalmente distinta dalla banca centrale libica, che ha quasi il 5%. Questo è anche un po' il nodo del problema, questa quota che ormai viene vista come un'unica quota, quindi 7,5%, in effetti due soggetti diversi, e la contestazione giuridica che viene mossa appunto alla Libia in senso completo è che avrebbe un'unica mano di gestione, i libici dicono no, sono due entità diverse, una è la banca centrale, l'altra è un fondo sovrano, in Occidente, da voi, dicono, ma non solo, in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, la banca centrale gode di autonomia, è un tema anche insomma sempre stato certo sottolineato, è come se dicessero in Italia, la Banca d'Italia fa comunella con la Cassa Depositi e Prestiti, cioè Draghi, Tremonti, infatti. Ecco, cosa può portare, che è la cosa più interessante, insomma, Dieter Rampl, il presidente di Unicredit, il vincitore dello scontro con Profumo, ha appunto scritto questa lettera, questa richiesta. Seconda lettera. Ma i libici a questo punto, tu ipotizzi che stiano anche ipotizzando di uscire, di tornare sui loro passi? Allora io riferisco un fatto che so, insomma, non vorrei dire, non lo sto ipotizzando io, giustamente ha detto quello. Io riferisco che ieri nel consiglio di amministrazione, il board della LIA, del Libyan Investment Authority, importanti pezzi di questo fondo sovrano che rappresenta, ricordiamo che la LIA è il fondo sovrano che gestisce il surplus dell'export petrolifero, quindi sostanzialmente il tesoretto libico, questo è la LIA, e quindi è rappresentato, diciamo, il paese lì, lo Stato libico. Alcuni pezzi importanti si sono posto il problema che tutte queste controdeduzioni che arrivano dall'Italia stanno oggettivamente creando un po' di imbarazzo. Qual è il tema? Cioè, noi abbiamo investito, dicono i libici, importanti somme, 1 miliardo, qui stiamo guardando quasi 3 miliardi di euro, complessivamente, cioè, la LIA però ne ha investiti una parte, diciamo un terzo, e dicono, vengono fatte delle questioni che ad altri non vengono fatte. Noi siamo gli investitori come gli altri, perché certo. dobbiamo rendere conto. Beh, devo dire che da questo punto di vista il ragionamento non fa una piega, nel senso, è vero che la percentuale libica ha un altro odore, anche se i soldi non dovrebbero avere profumi e odori rispetto a altri investimenti. Grazie, e ci terremo poi aggiornati con te. Grazie a Carlo Grazie Marroni a del Sole 24 Ore. Adesso andiamo verso il GR, poi parliamo di quote latte, poi arriverà Eugenio Benettazzo per la felicità di alcuni, per invece l'arrabbiatura di molti promotori finanziari che hanno scritto al 349-238-6666. Ci sentiamo dopo il GR. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver parlato di valute, delle dichiarazioni molto retoriche che arrivano dal Sud Corea, dal vertice finanziario dei G20, di una borsa oggi calma, molto calma, meno 0,13%, di un euro a quota 1,39 sul dollaro, dei libici che a questo punto sono perplessi loro stessi dell'investimento fatto in Unicredit, viste le continue spiegazioni che gli arrivano dai vertici, da Dieter Rampl, e dicevamo prima, insomma, i soldi non dovrebbero avere profumo, ha scritto un ascoltatore, mi sembra una battuta non male, i soldi non hanno profumo, ma profumo ha i soldi. E adesso parliamo di quote latte e poi Eugenio Benettazzo. Allora, le quote latte. Eh sì, perché se nel 2010 l'Italia per la prima volta è riuscita a non sforare la propria quota di produzione, resta aperta la questione degli splafonatori. ...563 aziende rispetto alle 39.500 che hanno rispettato la legge e che non hanno proprio voluto mettersi in regola. Allora, fino adesso gli esuberi produttivi del latte sono costati a questo paese 4 miliardi e 4 di multe trattenute dall'Europa. E oggi su questo è tornato il ministro Galan: i 563 irriducibili devono pagare le multe. In Italia ci sono 40.000 produttori di latte, di questi 39.500 o sono sempre stati a posto o si sono messi a posto con le due successive opportunità di rateizzazione, quella del 2003 e quella del 2009. 523, 560 non hanno aderito a nulla e producono senza poterlo fare. Per la prima volta, grazie all'azione del governo di cui io non facevo parte allora, ma che ha condotto la soluzione, quella della possibilità di aderire alle ultime quote, e ha ottenuto anticipatamente un aumento di 750.000 quintali, tonnellate di latte, noi sì, per la prima volta da 20 anni non abbiamo sforato. Di questa situazione, 26.000 di quei 39.500 hanno pagato, comprato le quote o pagato le rate dei mutui per la cosa, quindi vale 1,4 miliardi all'incirca, 1,3 miliardi le spese che i produttori hanno sostenuto. Chiaro che la posizione dei 523 è anche di concorrenza sleale, no? È un vantaggio competitivo non giustificabile. Staremo a vedere, l'abbiamo cercato il ministro Galano, oggi non poteva, per capire poi alla fine cosa succederà a questi 563 irriducibili strenuamente difesi dalla Lega e anche dall'ex ministro dell'agricoltura Luca Zaia. Adesso però, chiusa la breve parentesi sulle quote latte, abbiamo come ospite una persona che molti ascoltatori ci hanno segnalato, allora vorremmo capire il perché di questo successo di chi viene definito il Beppe Grillo dell'economia, il finanziatore, insomma il Grillo tremontiano. Ha scritto libri che sono diventati, insomma, un elemento di culto tra chi li ha letti. Padrone del tuo denaro è l'ultimo, Banca separato rotta, Manuale di sopravvivenza economica alla crisi un altro, Duri e puri aspettando un nuovo 1929 fu il primo, e molti anche in rete, nei blog, su internet, gli riconoscono di avere previsto l'arrivo della crisi. Allora, al secolo va sotto il nome di Eugenio Benettazzo, buonasera. Salve, buona serata, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, ci faccia capire il segreto del suo successo, come si dice in alcuni casi. Insomma, lei con chi ce l'ha veramente Benettazzo? Perché adesso hanno scritto decine di promotori finanziari, ma non siete un programma serio, invitate a questo punto anche Don Asimiento,

cioè facciano parte di un complotto pluto giudaico massonico contro l'Italia? No, guardi, mi dica. No, io direi complotti non li chiamerei proprio in causa, però se andiamo a soffermarsi su quelle che sono le recenti esternazioni degli Stati Uniti nei confronti della Cina, ci rendiamo conto che vengono manifestate proprio quelle esigenze che ho menzionato prima, ovvero bloccare, limitare attraverso quote import i prodotti che arrivano da Oriente, e dall'altra parte incidere attraverso un cambio di politica monetaria in Cina per aumentare, apprezzare. Mi scusi. E se nello specifico, se ci pensiamo bene, quello che è accaduto anche qui in Europa, chiaramente ci sono dei paesi che per il loro tipo di composizione del PIL, come l'Italia, che ha un 20% di peso solo del manifatturiero contro un 8-10 della gran parte del nord Europa, noi ci troviamo innanzi a un paese che ha molta più difficoltà a autosostenersi, a reagire con una determinata veemenza a questo tipo di cambiamenti, e sono cambiamenti che avrebbero dovuto realizzarsi, verificarsi in 25-30 anni, mentre hanno avuto un periodo di realizzazione stimato fra i 3 e i 5 anni. Ecco perché ci troviamo adesso in quello che viene definito un periodo epocale che non avrà precedenti storici. Sì, vabbè, un attimo, fermo, sennò diventiamo, se diventa anche lei come Otena, mandrà anche gli altri. Allora, vedo molti promotori finanziari che la correggono, e hanno ragione, a mio avviso, perché dicono, guardi, che lei non conosce la MiFID, la direttiva sui mercati finanziari, che permette al promotore finanziario di fare consulenza. Che poi la consulenza non la soddisfi, questo è un altro discorso, è un suo giudizio. Ma le chiedo una cosa, Benettazzo, io capisco poi che guardi, questo programma cerca, non so se ci riesca, di spiegare in termini semplici l'economia, la finanza, anche di non avere troppe riverenze per i santuari e i sepolcri imbiancati, però che senso ha dire, come sostiene lei, che il Made in Italy farà la fine del dodo, cioè scomparirà, dire cuoi e buoi dei paesi tuoi, chiedere i dazi doganali, cosa vuol dire chiedere alla Cina di aumentare i tassi? Come si fa? Gli mandiamo i bersaglieri? Cosa facciamo? Ecco, proprio per questo motivo qui la risposta dovrebbe essere di più ampio respiro, nel senso che adesso noi ci troviamo a scontrarci con un cambiamento di orizzonte che è veramente epocale. No, aspetti, ho capito il cambiamento epocale. Voglio capire, concretamente, le critiche le abbiamo mosse anche in questo programma, la Banca Centrale e altri organismi, ma lei concretamente, al di là di dire che bisogna che la Cina rialzi i tassi, e ripeto, difficile imporre qualcosa alla Cina, difficile che 56 milioni o 200 o 300 milioni di europei impongano qualcosa a 1,5 miliardi di cinesi, ma anche i dazi, non le sembra di cadere, visto che la chiamano il grillo della finanza e dell'economia, c'è Giuseppe Cruciani che ha già un po' di orticaria, non le sembra di cadere nel populismo, nella demagogia? Cioè, chiedere i dazi è impossibile, la legge sul Made in è già passata. Ma allora soffermiamoci a riflettere su quelle che sono state le recenti richieste appunto degli Stati Uniti nei confronti dell'economia planetaria, che vanno proprio in questa direzione. Cosa siamo? Pochi economisti indipendenti che usano ancora il buon senso per rendersi conto di quello che sta accadendo, oppure dobbiamo accettare ciecamente ed abbracciare un modello economico che è ormai completamente fallimentare? Mi sto riferendo al turbocapitalismo. Il turbocapitalismo ha portato proprio questo: doveva garantire benessere globalizzato e diffuso in tutto il pianeta, sta producendo esattamente il contrario: miseria e malessere globalizzato. Un attimo, adesso dico anche agli ascoltatori, noi tutti gli ospiti che vengono facciamo domande anche a Benettazzo, non abbiamo riverenze per nessuno. Benettazzo, una cosa però, la turbofinanza, la finanza deviata e derivata ha creato il disastro, il capitalismo degli ultimi 10 anni ha tirato fuori 400 milioni di persone dalla povertà. Non è che esista solo l'Italia o il nord-est al mondo. Non è turbofinanza, non c'entra niente la turbofinanza, qui stiamo parlando di turbocapitalismo, che è una variabili del capitalismo classico, che è alimentato da bassi tassi di interesse e costi di manodopera assunti ove più conveniente che questo sia. Allora, ho un minuto e mezzo, un minuto scarso per sentire la sua proposta. Quindi, dazi e obbligare la Cina, non ho ancora capito come, alzare i tassi di interesse. Cosa ne facciamo di Bruxelles, della WTO, della Banca Centrale Europea, della Svizzera, che lei non ama molto? Cosa ne facciamo? Perché non ci fermiamo a soffermarsi? Perché non ci soffermiamo e analizziamo quali sono i paesi che in questo momento qua stanno sorprendendo al mondo per o politiche monetarie o politiche industriali che tutti gli altri vanno in direzione opposta. Nello specifico possiamo individuare il Brasile, la Polonia, paesi che hanno PIL più che positivo e non hanno risentito minimamente di quello che è accaduto negli ultimi 18 mesi e come sono stati in grado di manifestare performance di questa portata, proprio percorrendo forme di di ristrutturazione della governance politica del paese, volta a proteggere innanzitutto l'occupazione interna, rilanciare i consumi e poi sostenere gli insediamenti all'interno del paese, mettendo dei vincoli attraverso quote import a tutta la merce cosiddetta di serie B o se non altro anche serie C. Ho capito. Allora facciamo una cosa, adesso io devo chiudere la Rivoglia in trasmissione perché tutte le proposte mi interessano. Sulle quote, sui dazi, io penso che non sia la soluzione. E vi ricordo anche che l'inflazione è bassa grazie anche ai prodotti cinesi. Comunque, la riavremo ospite. Grazie intanto e buon fine settimana anche lei, Eugenio Benettazzo. Giuseppe Cruciani, tra l'altro, pensa che la prefazione del suo libro l'ha scritta Parenzo. Mitico Benettazzo. Mitico perché? Mitico, così mi piacciono i. No, non ti piace Grillo, ma ti piace liberi. Benettazzo, vabbè. I temi che c'è poco tempo, come poi sforiamo. Come personalità. Poi sforiamo. Non sto parlando dei contenuti, vabbè, insomma, le polemiche sempre su Saviano, la RAI, la videocrazia italiana, eccetera, eccetera. E la radiocrazia italiana magari un giorno, chi lo sa. Per adesso è videocrazia. Allora... Speriamo che si instauri la radiocrazia. Allora, tra poco Giuseppe Cruciani con la Zanzara da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata, un ringraziamento e un buon fine settimana, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi. Anche questa settimana per l'assistenza e redazione, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.